Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Dopo che Alessandro Baricco, in un articolo pubblicato su Repubblica, aveva evidenziato la necessità di utilizzare televisione e scuola come mezzi per far rinascere la cultura italiana, il ministro per i beni culturali, Sandro Bondi, ha proposto di svincolare una rete nazionale dal sistema di rilevazione dell'Auditel e della pubblicità, così come aveva fatto Sarkozy per la Francia. Vorrei fare un paio di domande sulla questione della TV culturale. In Francia, dove attualmente vivo, esiste già una rete televisiva culturale e si chiama Arte. Il risultato è una televisione boriosa, tediosa, purtroppo molto colta e fintamente apolitica. È forse impossibile pensare una televisione culturale finanziata dallo Stato, che non sia politicizzata e che non annoi? Uno dei vostri ospiti, la scrittrice Lidia Ravera, ha chiesto di depoliticizzare la nuova televisione, di non affidarla a uomini e donne guidati da secondi fini. È mia opinione che partiti entrerebbero come sono entrati in Rai e farebbero politica con altri mezzi e, come al solito, con i soldi dei contribuenti. È possibile che si debba ancora credere nel partito della cultura? Esiste veramente un autorevole e dinamico gruppo di intellettuali capaci di fare politica culturale senza fare politica partitica? E poi, chi li sceglierebbe questi intellettuali? Edoardo, Parigi. Egregio signor direttore, il controllo della redistribuzione dei Tremonti Bond è affidato alle prefetture. La prefettura è un organo dello Stato centrale che fa capo al Ministero degli Interni. A quest'organo compete molto spazio nell'organizzazione dell'ordine pubblico e non solo, nel rispetto delle leggi. Adesso il governo lo vuole investire di responsabilità economiche. Ma perché? Non ci sono forse altri organi propensi a questo? È come dire che domani, senza nessun problema, un cardiologo possa fare il geologo per valutare e ascoltare se una roccia ha un cuore che pulsa. La soluzione sta nella possibilità di avere a contratto delle imprese una struttura o un ente che conosca di tutto e di più del territorio e delle imprese. Non è necessario fare altri enti perché esiste già. È il registro delle imprese, che fin dal 1996 è gestito in forma federalista con un sistema unico telematico per l'intera Repubblica, da un apposito ente che si chiama Camera di Commercio. Non solo, ma a questo ente la riforma Bassanini affidò un sistema di controllo e sanzionatorio per le imprese commerciali e industriali scorrette e un'altra legge gli conferì la tenuta dei registri dei protesti nonché il controllo degli strumenti di misura necessari nelle attività commerciali. Competono sempre a questo ente i rilevamenti dei prezzi e dei dati statistici da inviare poi all'Istat. Orbene, ai politici di qualunque colore e schieramento che da anni parlano di federalismo, gli si era presentata l'occasione per dimostrare praticamente le loro volontà in un contesto reale e realizzabile. Infatti, affidando il controllo gestionale alle Camere di Commercio, avrebbero fatto un'opera di affidamento di responsabilità al sistema radicato nel territorio e non centralizzato nelle direttive. Agostino. Il segretario del PD, Franceschini, al quale si sono ora uniti alcuni sindacati, ha richiesto di tassare ulteriormente, a titolo di solidarietà, i redditi superiori a 120.000 euro, per il sostegno di coloro che, senza altre garanzie dello Stato, stanno perdendo il posto di lavoro. A mio parere, questo provvedimento sarebbe ingiusto, perché andremmo a tassare ulteriormente chi ha già pagato e, inoltre, ne deriverebbe un contributo solo marginale al problema. In Italia ci sono milioni di lavoratori privilegiati, ovvero i dipendenti pubblici, statali e parastatali. Detti lavoratori, quali siano le condizioni economiche dello Stato o dell'ente da cui dipendono, sono garantiti a vita del posto di lavoro e della retribuzione in barba a qualsiasi crisi economica. Questo privilegio dovrebbe essere abolito. In attesa di questo radicale provvedimento, peraltro improbabile, in questa difficile contingenza economica, tutte le forze politiche di comune accordo dovrebbero emanare un provvedimento di urgenza che consentisse di tassare le remunerazioni di tutti i dipendenti pubblici a posto garantito per una percentuale tale da sostenere i lavoratori in difficoltà che hanno perso il loro posto di lavoro. Comprendo che questa azione sarebbe impopolare per chi subisce la decurtazione, ma potrebbe segnare l'inizio di una maggiore giustizia sociale nel mondo del lavoro che la sinistra e i sindacati predicano, ma che nei fatti combattono da sempre per motivi elettorali. Il provvedimento avrebbe successo qualora fosse presentato unitamente alla definitiva decisione di dimezzare il numero dei deputati, dei senatori, dei consiglieri regionali e provinciali, con un sostanziale ridimensionamento dei loro emolumenti e dei loro privilegi assurdi. Mauro, provincia di Livorno. È ora di finirla di minimizzare gli scandalosi atteggiamenti nei quali indugia la classe politica italiana. È ora di finirla di considerare quanto fanno i pianisti alla stregua di scappatelle innocenti, che in fondo facciamo tutti. Io sono un lavoratore dipendente che non ha modo di sgarrare su nulla, perché ho la certezza di essere giustamente sanzionato. Non vedo perché chi è chiamato a rappresentarci e che dovrebbe esprimere quanto di meglio sia reperibile in circolazione, in quanto a spessore umano e quant'altro, possa tranquillamente e sistematicamente calpestare le regole che riguardano tutti. È anche attraverso le opinioni dei media, come questa sui pianisti che ho sentito più volte esternare, che la gente costruisce la propria. Flavio. Riminizzazione è il termine coniato per descrivere la colata di cemento e la distruzione a fini speculativi del territorio di Rimini e dintorni. Ora, in riferimento alla legge sui possibili aumenti di cubatura degli edifici, mi domando come può un partito che da sempre è egemone in Romagna porsi ora a tutore del territorio contro le colate di cemento. Un tempo si permetteva ai proprietari delle pensioni di alzarle di un piano per fare i bagni nelle camere. Si permetteva a un padre di famiglia di creare una mansarda ai figli. Ora ciò è tutto vietato dai cocomeri. Così sono definiti certi verdi, che sono verdi fuori e rossi dentro. Ma le speculazioni dei soliti noti, ogni comune ne ha qualcuno, ci hanno riempito di alveari monolocali con zero parcheggi. Sicuramente anche questa legge del governo andrà a favorire i soliti noti, non discuto di questo. Ma che gli artefici dello scempio della mia subregione si ergano ora a paladini, mi trasmette i brividi. Jimmy. Abito in provincia di Vicenza e vi posso assicurare che da noi il fenomeno del randagismo non esiste, e non certo perché lo Stato finanzi maggiormente i canili da noi piuttosto che al sud. Finiamola con questo sud che ha sempre bisogno di aiuti, adesso anche per i cani randagi. Dispiace vedere come la morte di un bambino di 10 anni, che è da addebitarsi al 100% all'inciviltà delle persone, venga giustificata dal sindaco di Scicli come una morte annunciata, una tragica fatalità. Esiste un'anagrafe canina obbligatoria, esiste un servizio veterinario obbligatorio. Come può essere possibile che nel meridione non ci possono essere le stesse regole che esistono da noi? Adesso chi ci rimetterà sarà la solita decina di cani incolpevoli, per poi continuare con la solita tiritera. Diventeremo mai un paese unito e civile? Ruggero. Durante un immaginario e non venatorio safari, una iena Ridens mi ha chiesto: «È vero che dalle vostre parti i cani senza padrone vengono mantenuti a spese delle persone? È vero che una famosa università usa i soldi dei cittadini per mantenere i gatti in centri di benessere? È vero che gli umani mangiano milioni di galline e di conigli e mangiano milioni di denaro pubblico per curare e accarezzare la fauna selvatica che ha la bua? È vero che nei parchi naturali gli animali contano e costano più delle persone? È vero, o è una favola al rovescio, che proteggono i lupi che mangiano gli agnelli? È vero che si possono far morire di fame e di sete alcune persone, ma non gli animali sotto protezione? Se tutto questo è vero, mi arrabbio come una iena e propongo un cambio. Voi uomini col portafoglio strano venite ad abitare dalle nostre parti e noi, belve di buon senso, portiamo la residenza nei vostri parchi. Non trovando parole per dare voce a ragioni che il mio cervello non riesce a cogliere, passo a quelli più bravi di me il compito di rispondere alla iena Ridens, nella speranza che costoro, con la loro dialettica attorcigliata, provochino una mutazione genetica nella iena Ridens, creando cioè la iena Sapiens. Costante. La nostra azienda di famiglia è una piccola impresa commerciale di vendita al dettaglio che gestisce alcuni punti vendita in città e alcuni centri commerciali lombardi. Dato che dipendiamo in gran parte dal business che gira intorno ai matrimoni, potete immaginare quante siano le difficoltà che stiamo incontrando da un po' di anni a questa parte, tra calo delle nozze e convivenze. Quello che abbiamo rilevato è che i matrimoni si sono bloccati, così come le attitudini di spesa della gente. È come se, tutto ad un tratto, chi pensava di sposarsi quest'anno abbia deciso di rinviare ed è assolutamente comprensibile, sia da parte dell'operaio che si è visto mettere in cassa integrazione, sia per chi aveva investito i risparmi in borsa e ora deve sperare che la borsa si riprenda. In questo la crisi è stata democratica. Come reagire da parte nostra, da imprenditori? Allo stesso modo in cui reagiamo come individui, seguendo ciò che diceva Roosevelt e, pur non volendo accostare i due, ciò che dice anche Berlusconi. E cioè, continuando a comportarci come se nulla fosse accaduto. Se chi ha margini di manovra smette di manovrare e chi ha qualche soldo da spendere non lo spende, allora è un suicidio. Gianni. Sono abbonato al Sole 24 Ore e ricevo il quotidiano in gruppi 3 volte alla settimana. Mi ritengo fortunato perché la corrispondenza ordinaria, contenente talvolta avvisi di pagamento o assolvimenti obbligatori per l'azienda di mia proprietà, vengono recapitati anche ben oltre i 60 giorni dalla data del timbro di spedizione, sempre più rara e misteriosa. Vivo a Milano, zona 5, CAP 20-141. Mi sono recato presso l'ufficio postale centrale di zona. All'interno dell'ufficio postale, vendita di libri, dischi, gadgets vari, biglietti di manifestazioni, prodotti bancari, telefonici, eccetera, in ogni angolo e ben pubblicizzati. A quando anche agenzia di viaggi, assicurazioni e magari prodotti alimentari? Nel frattempo, chi assolve al servizio postale in Italia? Dobbiamo aspettare fiduciosi che le rinnovate relazioni con la Libia consentano a questa di prendere in gestione qualcuno degli scassati servizi pubblici italiani in modo da fare un timido passo nel terzo millennio. Il Sole 24 Ore, sensibile all'economia del paese, non si sente di dedicare una parola sul livello dei servizi pubblici e di questo in particolare, che sono tra l'altro un freno allo sviluppo del paese e all'incentivo ad investire, cosa peraltro studiata e definitivamente additata come il più grave handicap dell'economia in via di sviluppo. Sergio. Caro Sergio, per quanto valgono le classifiche internazionali, l'Italia è quasi sempre agli ultimi posti nel livello dei servizi. Passi avanti, negli ultimi anni ne sono stati fatti indubbiamente e anche le poste hanno migliorato la loro immagine, anche se siamo ancora lontani dagli standard degli altri paesi. In Svizzera c'è un modo di dire per garantire una certezza. Si dice andrà come una lettera alla posta, perché arriverà sicuramente al destinatario. In Italia, anche nelle grandi città, ci sono ancora problemi e ritardi, ma la posta resta comunque fondamentale. Arriva anche nei piccoli paesini di montagna e aiuta a tenere unita l'Italia. Anche per questo, speriamo, c'è ancora più amarezza quando qualcosa non funziona. E le poste sono un po' l'esempio dell'Italia. Hanno punte di eccellenza, servizi moderni e molte sedi finalmente accoglienti, dove si può far la coda stando seduti, e questa è una grande innovazione, un segno di rispetto verso i clienti. Ma a fianco ci sono anche inaccettabili ritardi e significative disfunzioni, e questo indubbiamente pesa sulla competitività del paese. L'apertura del mercato e la concorrenza si sono comunque fatte sentire, ma si può e si deve migliorare ancora. Erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.